infinita murre. Le ale ale, infinita murre. Le ale ale, infinita murre. Le ale ale, infinita murre. Ehi tu, ragazza cioccolata, vieni e tu parti con me. Ale ale ale, salato come te. Ale ale ale, fai la doccia falla come me. Bella, stasera sarai bella, bella e ballerai con me. La notte fresca ti striderai a me. Ale ale ale, bikini d'amore. Ale ale ale, bikini d'amore. La la la la la. Bikini d'amore.